Green Utility SpA è una società di recente costituzione. Per una sorta di coincidenza nasce il 9 marzo 2007, lo stesso giorno in cui la Commissione europea ha definito come obiettivo vincolante il 20% di energia rinnovabile nel 2020. La mission di Green Utility è quella di diventare l'energy manager dei grandi clienti pubblici e privati, fornendo loro delle soluzioni energetiche integrate che si ispirano a tre pilastri fondamentali: efficienza energetica, risparmio economico per il cliente e aumentare il grado di ecocompatibilità, quindi promuovere tecnologia ad energie rinnovabili. Green Utility è espressione di tre grandi forze, quindi il gruppo Solon AG, socio al 40%, il gruppo tedesco Solon AG è il primo produttore europeo di sistemi fotovoltaici e anche il primo produttore italiano. L'altro gruppo con il 30% è il gruppo Gesenu, che è la prima utility ambientale italiana a maggioranza privata, e poi l'altro 30% è detenuto dai manager, che quindi hanno apportato le loro competenze e il loro entusiasmo in questo settore. Il progetto più significativo che noi abbiamo realizzato fino adesso è il progetto Fiera di Roma, di cui diciamo siamo gli sviluppatori e gli investitori, e che è un progetto che possiamo anche descrivere in maniera molto sintetica. Si tratta di realizzare il tetto fotovoltaico a thin film più grande al mondo, perché la superficie del nuovo polo fieristico di Roma è una superficie che supera i 40.000 metri quadrati sul di tetto, più le aree circostanti, che saranno circa 5 ettari destinati ad un impianto fotovoltaico con tecnologia di inseguimento solare, quindi tipo dei grandi girasoli, di cui due esempi sono già installati adesso in Fiera di Roma. Questo investimento è un investimento di circa 12-14 milioni di euro, che verrà totalmente sostenuto da Green Utility, mentre Fiera di Roma beneficerà, e qui vediamo in che cosa consiste quando io parlavo di energy manager, soluzioni energetiche integrate, beneficerà gratis del 20% di energia verde prodotta dall'impianto. La restante quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico sarà ceduta a Fiera di Roma per 20 anni ad un prezzo bloccato, quindi senza inflazione energetica, che sappiamo essere non l'1-2%, ma essere l'8-9%, perché è un prezzo che rincorre il prezzo del petrolio e il prezzo del gas. Ha una condizione che è senza fasce orarie, perché e sostanzialmente sappiamo che l'impianto fotovoltaico, producendo di giorno, produce in tutti i giorni della settimana in fascia F1, che è quella tradizionalmente più cara, e ad un prezzo che già oggi è fortemente scontato rispetto al prezzo che loro correntemente pagavano. Quanta energia riesce a produrre un impianto come questo? Un impianto come questo produce, secondo delle stime che si basano sui dati di irraggiamento del GRC, che è la banca dati della Commissione europea, produce circa 2 milioni e mezzo di kilowattora l'anno. Quindi se anche poi chi si è divertito a fare dei parametri ambientali, è come dire 200 ettari di bosco in più in termini di emissioni di CO2 evitate.